è la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Non delegare, partecipa. Minuti. Benvenuti alla terza puntata di Do It Yourself Invasion. Trasmissione sulla pratica del Do It Yourself musicale. Ricordiamo brevemente i contatti della radio: 06 49 17 50. L'email di redazione ondarossa@ondarossa.info, nonché l'email della trasmissione diyinvasion@autoproduzioni.net, nonché l'email del sottoscritto fantasma@ondarossa.info. Già stiamo ascoltando sotto brani tratti dalla compilation Disgusto e Strafottenza, volume 1. Compilation della Milano Hardcore. Quindi un paio di settimane fa si sono... hanno unito le energie individui e un gruppo di collettiva a Milano. Che, citiamo, credono che i fatti contino più delle parole e che il supporto non sia un concetto astratto. L'hardcore e il punk sono la nostra vita, e la nostra vita è adesso. Quindi, mettendo da parte la nostalgia verso i tempi ormai passati, senza comunque dimenticare quindi all'insegna della nostra musica e dei valori che da sempre ci rappresentano: l'anticapitalismo, l'antifascismo, l'antirazzismo, l'antisessismo e l'antispecismo. Perché no, non è soltanto musica. E quindi è uscita questa compilation. A seguito di una serie di concerti organizzati per le strade di Milano. Quindi potete scaricare liberamente Disgusto e Strafottenza, sostenendo questo progetto con un'offerta libera. Quindi il ricavato servirà a sostenere le spese di stampa . Questo è solo il volume 1 della compilation. Quindi sostenete questo progetto. Ed abbiamo avuto per le strade di Milano il nostro corrispondente numero uno, un collaboratore di Do It Yourself Invasion. Invitiamo tutti all'ascolto, se volete partecipare alla trasmissione scriveteci. Se volete raccontarvi, fatelo attraverso questa trasmissione. E il Mastello ha preparato una serie di contributi. Noi iniziamo con una chiacchierata con Robby della fanzine Tutti Pazzi. Riusciremo a farvi sentire tutto. Questo è sempre Radio Onda Rossa 87.9 in FM della banda romana e laziale ed in streaming www.ondarossa.info. Buon ascolto. 5 luglio, disgusto e strapotenza fest 2015, Pianeta Terra, Milano, quartiere ticinese, Via Gola, sì, proprio asciutta, e ci hanno pensato i baretti qua intorno. Va bene, siamo qua con Robby, storico personaggio, posso dire storico? Va bene, grazie, accetto. Certo, Robby, storico personaggio della scena italiana, perché poi alla fine noi ci classifichiamo sempre con delle città, ma poi alla fine comunque ci ritroviamo sempre, sì. tutti quelli che girano un po' si ritrovano sempre. Esatto, diciamo che le città contano ben poco, via. Ecco, tu non sei milanese? No, io sono ligure, sono di Savona, mi sono trasferito a Milano da 6 o 7 anni. Ho deciso di convivere con la mia compagna e quindi sono venuto su. Ecco, c'è un gruppo che a te non piace perché ne abbiamo già parlato, che si chiama DSA Commando, che però ha una strofa abbastanza caratteristica, in cui vorrei così introdurre anche diciamo la tua storia, no? Che dice che in provincia si muore due volte. Una è quella normale, l'altra si muore di noia. Per una persona che nasce nella provincia, poi Savona comunque è una cittadina, non è proprio una provincia, fa provincia, quindi è una cittadina. Come ci si rapporta? Cioè qual è la scintilla che fa dire, boh, a me sinceramente di andare in discoteca, di andare sul lungomare, visto che parliamo di Savona, insieme agli Zarri o comunque solo a bere, perché non è che noi non beviamo, solo a bere, no? Così, quella cosa che è successa nella tua vita per cui ti ha fatto prendere, diciamo, il lato oscuro della forza. Beh, devo dire che secondo me è nato tutto come passione. Parliamo dei primi anni 80, io ero finito forse per sbaglio in un centro sociale di Alessandria e curiosando queste fanzine, questi dischi, queste cassette, sono stato proprio rapito, affascinato. E nel mio caso, guardando queste fanzine, ho detto, oh, che bella storia, è una cosa che mi piacerebbe molto fare, e quindi mi sono dedicato a fare una fanzine, ho cominciato a prendere i primi contatti, e per me l'ideale di fanzine è sempre stato, a parte il promulgare, fare pubblicità ai gruppi underground sconosciuti, e fare un giornaletto come lo sognavo io. A me un giorno piacerebbe andare in edicola e trovare un giornaletto come lo faccio io, e quindi ho deciso di farmelo per conto mio. Ho visto che altre persone riuscivano a autogestirsi e autoprodursi questi prodotti, e niente, mi sono buttato in questa storia e ci sono ancora adesso. Ecco, ma com'è comunque alla fine gente come me, per dire, che vive a Torino, che è una città che ha dato molto, no? Almeno a livello musicale, ma non solo a livello musicale, a quella che viene chiamata scena. Com'è comunque, cioè, quando sei arrivato a scoprire queste cose qua, nella tua città, cosa c'era? Sì, diciamo che nella mia città non c'era poco e niente, diciamo che il factotum un po' di Savona è Marco Balestrino, che conosceranno tutti, di Classe Criminale, e tramite lui, tramite le sue amicizie, girando anche un po' nel suo ambiente, sono venuto a scoprire questo mondo underground che ovviamente per me era tutto sconosciuto. E devo dire anche, questa è un po' una cosa un po' molto recondita, io all'età di 7 anni mia mamma mi diceva non andare in piazza che ci sono i punk, e io all'età di 7 anni andavo in piazza dove c'erano i punk nascosto dietro le macchine e passavo interi pomeriggi a guardarli, perché io ero affascinato da questi giubbotti pieni di scritte, da questi capelli colorati, e non sapevo che cosa facevano. Però ero talmente affascinato che piano piano poi questa cosa me la sono portata avanti nella vita e sono venuto, ci sono ancora adesso. Ecco, quindi uno conosce comunque un giro, ci si appassiona. Sì, più che sia passione è anche proprio lo stile di vita, riuscire ad auto-organizzarsi, autoprodursi. Poi vabbè, nel nostro ambiente, io parlo appunto della scena hardcore punk, non si parla solo di fanzine, ma si parla anche di lotte, di manifestazioni, di diritti per la casa, di uguaglianza. Sono tutte cose che a me sono sempre piaciuti, insomma. Ecco, a parte, quindi comunque una persona cresce, tu hai iniziato a fare una fanzine, poi non deve essere stato facile comunque spostarsi da Savona per Milano piuttosto che per Genova, che è più vicina, sì. E comunque la scena genovese almeno nei 90 comunque non era malaccio, insomma, sì. C'erano delle belle cose, delle belle situazioni, dei bei gruppi, anche se vogliamo, anzi se vogliamo, ce n'erano dei bei gruppi, persone anche a cui io voglio bene. Però a parte questo, sempre rimanendo in quegli anni miei, no? Che poi alla fine sono quelli che io mi sono vissuto di più. Comunque negli anni 90 c'era una certa pratica nel fare le fanzine, c'erano parecchie fanzine, certo, cartacee, certo. Perché internet non era ancora arrivato. Poi è arrivato internet, anche le persone che facevano le fanzine, chi più chi meno, chi ha preso magari strade un po' più patinate, diciamo, no? Hanno iniziato a buttarsi sulla rete. Cosa vuol dire nel 2015 partecipare a delle giornate così? Perché poi comunque chi fa le fanzine delle volte non partecipa, sembra che quello che viene scritto su uno schermo sia tutta fuffa, passami il termine. Sì, sì, okay. E poi nel 2015 invece stampare, come si faceva comunque negli anni 90 e prima nell'80, una fanzine cartacea con le proprie forze, appunto, e comunque partecipare a giornate come queste. Certo, no, io continuo a farla su carta, perché comunque per me la fanzine deve essere su carta e deve essere una cosa proprio autoprodotta e auto-organizzata, quindi di conseguenza io la faccio con il poco materiale che ho a disposizione, anche economicamente diciamo che è un piccolo sforzo, perché tra fotocopie, diciamo che anni fa si spendeva di più perché dovevi andare in posta, adesso magari è molto più veloce tramite i social network, si fanno le interviste, però io comunque voglio rimanere ancorato a quella scintilla che io ho sentito anni fa quando ho aperto la mia prima fanzine, ho detto cazzo che bello, io voglio fare una storia simile, quindi voglio anche dimostrare che nonostante siano passati tantissimi anni io rimango ancora accorato all'old school, chiamiamolo così. Adesso l'ultima domanda, poi chiudiamo. Una giornata come questa, tanti altri chiamiamoli eventi, perché anche se è un termine comune, sì, brutto, però è il termine che comunque racchiude in sé, certo, dei significati. Giornate d'incontro come questa, dove si rincontra, dove si vedono anche gruppi, bei gruppi che suonano. Come vedi comunque questo tipo di auto-organizzazione, questo tipo di comunicazione del dissenso, chiamiamolo così, ad oggi? Cioè, sappiamo che ci sono comunque molti eventi un po' più tra virgolette diversi, no? Dove non hanno comunque dietro delle politiche, anche se poi la politica è quella di stare insieme e tutto, certo, quanto, però comunque siamo in strada. Come hai visto comunque una trasformazione? C'è stata una trasformazione? Dove stiamo andando? Ma di trasformazione diciamo che non ne vedo molta, nel senso con eventi come questi, e che suonare in strada è proprio riprendersi la città, riprendere certi discorsi e riuscire a portarla avanti, appunto con l'auto-organizzazione e l'autogestione. Io non vedo questi grandi cambiamenti magari appunto li vedo questo rapporto che c'è tra di noi adesso tramite social network, molto freddo e un po' troppo schematico, stare delle ore davanti a un monitor così. Però vedo che appunto nella scena punk hardcore ci piace ancora incontrarsi tra di noi, bersi una birretta e scambiare opinioni, e perché no, organizzare eventi come questi, che comunque ci vuole una certa forza, una certa tenacia. Ok, adesso l'ultima cosa, Ricorda i tuoi contatti, giusto così almeno i radioascoltatori e le radioascoltatrici potranno sapere dove trovarti. Va bene, mi potete trovare sulla mia pagina Facebook, come Tutti Pazzi Roberto, oppure mi potete contattare tramite email a tuttipazziextreme@libero.it. Ringrazio Fabrizio per questa intervista e ringrazio tutte le persone che sono qua oggi, che ha organizzato tutto. Grazie Rob. Questa era l'intervista realizzata da Mastello con Robby di Tutti i Pazzi, la fanzine. Che trovate da un po' di anni, da un bel po' di anni. Sui banchetti di Mezza Italia e Varie Distro. Intanto abbiamo ascoltato un altro pezzo dalla compilation, appunto, Disgusto e Strafottenza volume 1. Ora ce li riascoltiamo da capo, eh. Loro sono i Class e questa è Classify. Ed abbiamo pronto già un altro contributo. Questa volta con Turi Messineo, autore di un libro, Black Hole, uno sguardo sull'underground italiano, che non abbiamo letto da queste parti. Ahinoi. Se l'avete letto e volete farci sapere i vostri pareri, potete scriverci sempre al solito indirizzo diyinvasion@autoproduzioni.net. Il telefono è sempre lo stesso, 06 49 17 50. Ed eccolo qua. Ciao, io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. E allora, oggi è il 5 luglio 2015, siamo a Disgusto e Strafottenza Festival volume 1, voi siete sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e abbiamo qua un graditissimo amico, così, che ormai conosco da una vita, che arriva da una città, la città degli arancini, poi fondamentalmente c'è anche arancine. Anche la città dello zio Turi, ma lo zio Turi fa il cavallo e a noi non ce ne frega niente, però Turi si chiama come Turi, cioè l'ospite di questa intervista. Ciao a tutti, grazie per avermi rivolto questa intervista in questo nuovo programma, diciamo, che chiamiamolo programma, che poi che tenterà anche questo di abbracciare il più possibile tutto quello che riguarda poi l'underground, i nostri posti, come dicevi tu prima quando mi spiegavi un po' di cosa si trattava, ecco. Quindi vi ringrazio anche per l'opportunità, per darmi questo spazio. Io e te ci siamo conosciuti nel 2002, vabbè, nei primi 2004-2005, in quello che era uno spazio occupato a Torino che non esiste più, che era il Rosalia, mi sa, no? Il Rosalia, proprio da qua voglio partire. Si parla spesso di, vabbè, il punk hardcore come musica, ed è comunque musica, perché tutti noi abbiamo delle nostre preferenze e tutto quanto, però si parla sempre più di meno rispetto, per dire, agli anni 90, che anche tu hai vissuto, di quello che sta dietro alla musica. Qualcuno diceva è caos, non è musica. Voglio sapere tu come ti rapporti, visto che sei anche un musicista, oggi hai suonato con gli Onoda, come ti rapporti quando devi partecipare a questi tipo di eventi? Allora, io parto sempre da dove, insomma, è cominciato il tutto, no? Quando tu sei ragazzino, sei piccolo e comunque sei abituato anche ad ascoltare della musica che è la musica commerciale, poi vuoi o non vuoi è la musica commerciale, il cantautorato italiano, hai alle spalle magari due genitori che ascoltano musica, che hanno ascoltato musica negli anni 60, negli anni 70, quindi comunque ti trasmettono un po' di quello che è il loro gusto. Ecco, quando per la prima volta riesci ad avere contatto con un genere musicale che sconosci, che non hai assolutamente mai sentito, come può essere l'hardcore americano. Per me è stato l'hardcore americano il primo ascolto in assoluto. Io ho comprato per i miei primi due CD sono stati Pennywise, About the Time e Something's Gonna Give the Amniotic Front. Dico, comunque due ascolti abbastanza complessi. E allora, oggi è il 5 luglio 2015, in quello che era io e te ci siamo conosciuti nel 2002, vabbè, nei primi 2004-2005, in quello che era uno spazio occupato. La tecnologia non c'è di supporto. Era l'alcol. Recuperiamo subito il file. Proprio da qua voglio partire. E siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Vabbè. Questa è Do It Yourself Invasion. Stiamo trasmettendo dei contributi realizzati durante la 5 giornate del punk hardcore. Però si parla sempre più di meno. Avvenute un paio di settimane fa a Milano. Che tu hai vissuto di quello che sta dietro. Questa è l'intervista a Turi Messineo. Buon ascolto. Qualcuno diceva è caos, non è musica. Voglio sapere tu come ti rapporti, visto che sei anche un musicista, oggi hai suonato con gli Onoda, come ti rapporti quando devi partecipare a questi tipo di eventi? Allora, io parto sempre da dove, insomma, è cominciato il tutto, no? Quando tu sei ragazzino, sei piccolo e comunque sei abituato anche ad ascoltare della musica che è la musica commerciale, poi vuoi o non vuoi è la musica commerciale, il cantautorato italiano, hai alle spalle magari due genitori che ascoltano musica, che hanno ascoltato musica negli anni 60, negli anni 70, quindi comunque ti trasmettono un po' di quello che è il loro gusto. Ecco, quando per la prima volta riesci ad avere contatto con un genere musicale che sconosci, che non hai assolutamente mai sentito, come può essere l'hardcore americano. Per me è stato l'hardcore americano il primo ascolto in assoluto. Io ho comprato per la prima i miei primi due CD sono stati Pennywise, About the Time e Something's Gonna Give the Amniotic Front. Dico, comunque due ascolti abbastanza complessi. Quando ascolti quel genere di cosa non esiste una via di mezzo, cioè o ti piace e cominci a percorrere quella via o non ti piace, cioè comunque sei distante, resti distante da quello che è in realtà anche uno stile di vita, non soltanto un genere musicale in sé per sé. Quello che ho capito nel tempo, frequentando i luoghi dove poi si svolgono determinati concerti, dove si sviluppano determinati stili musicali, è che in realtà questo tipo di musica, l'hardcore e il punk, non è soltanto prendere uno strumento e suonare, ma c'è tanto dietro, c'è una costruzione, c'è interesse, c'è il profilo di ogni persona che vive quelle storie, che vive quelle canzoni che sta suonando, che sta ascoltando. Quindi è anche il non volere barriere, non esistono le barriere tra i gruppi e il pubblico, non esistono le barriere tra chi ascolta e chi sta suonando. È per questo che dico io è uno stile di vita e non è soltanto un genere. Alla fine poi in queste situazioni, nella quella che chiamiamo tutti scena, ci sono vari stili di vita che convergono, no? Tu l'hai anche abbastanza descritto nel libro, non siamo tutti uguali, ma siamo una comunque tante facce di una stessa medaglia, no? Ed è anche un discorso che fanno molti gruppi, anche americani, che hai ascoltato anche tu, con cui hai iniziato ad ascoltare pure tu. Quello che ti volevo dire è: esiste secondo te nell'underground una sorta di barriera, no? Che magari negli anni 90 esisteva a livello di attitudine. Io sono street age, non vengo alle tue iniziative, adesso faccio un esempio, alle tue iniziative perché magari, che ne so, dai da bere l'alcol piuttosto che mangi gli animali, chi era vegan e tutto quanto. Però poi col tempo, secondo me, ci siamo accorti che non potevamo stare così tanto separati. Tu oggi come ti vivi questa tua condizione, chiamiamola così, di vegan street age nel 2015, anche in relazione con quelle persone che hai attorno? Allora, per quel che mi riguarda, io ho intrapreso la strada dello street age, che poi è una scelta di vita abbastanza importante, non per voler distinguermi e quindi impormi su altri profili, altre scelte, altre persone, ma ho intrapreso questa strada per me stesso. Cioè, io ho cominciato frequentando a Palermo le scene skinhead dei posti occupati, e da lì poi, conoscendo la musica hardcore e conoscendo tutti i ragazzi che facevano parte di un determinato ambiente, mi sono interessato, ho letto, ho conosciuto, ho ascoltato dei dischi e ho capito che effettivamente quella strada era forse la strada più giusta per quello che era il mio profilo, per quello che era la mia persona. Una cosa che ho notato rispetto agli anni che io non ho vissuto, perché comunque io negli anni 90, nel pieno degli anni 90 ero troppo piccolo, è che rispetto agli anni 90 oggi c'è molta più apertura, molta più tolleranza, molta più tranquillità, ed è una cosa che io mantengo anche un po' come accusa rispetto a chi viveva quegli anni, perché tendeva ad alzare delle mura fitte, possenti verso tutto quello che erano le altre scene, cioè il chiudersi in una sorta di ghetto, in una sorta di nicchia esclusiva, ecco, potremmo dire esclusiva, e secondo me quello non è un bene, perché in quel caso tu ti metti contro, e il mettersi contro in una scena come quella underground, come quella punk, come quella hardcore, che dovrebbe essere una scena aperta, forse la più aperta, disposta a ogni compromesso, a qualsiasi tipo di iniziativa, di personalità, è sbagliato, cioè ti poni contro. Tutto quello che è successo con la diffusione dei gruppi vegan, dell'hardcore, della nostra scena italiana, che comunque hanno dettato i tempi, hanno dato tanto, perché sono comunque importanti, sono ancora ora riconosciuti come band fondamentali anche fuori dall'Italia, è stato però anche un volersi imporre, un voler puntare il dito contro, dire: ah, tu non fai così, allora hai sbagliato, perché quel discorso che tu porti avanti è diverso dal mio, il mio è migliore, il tuo è no. E quello secondo me è sbagliato. Essere straight edge, o essere, non so, un punk a bestia, o essere, non lo so, un anarchico, o essere un militante vicino agli spazi occupati, sono comunque tanti percorsi importanti, soprattutto perché sono importanti per la persona che li vive e che ha scelto di vivere quella strada. Io la vedo così. Io ho avuto il mio gruppo straight edge hardcore, abbiamo suonato per 10 anni, quel Velius Intact era bellissimo, portavamo avanti con una certa attitudine dei concetti. Quando abbiamo visto che stava finendo tutto, ci siamo fermati proprio per quello. Adesso suono con persone che bevono, che sono matti, però non per questo io mi infastidisco, dico: ah, cazzo, potrei farmi di nuovo il gruppo straight edge, così non va bene, anzi mi diverto anche forse di più, perché mi confronto con una realtà che è diversa dalla mia. Ok, hai citato il gruppo, quindi mi sembra doveroso. Ultima domanda e poi ti lascio andare a questa giornata che è abbastanza importante. Onoda, una roba abbastanza diversa poi da quello che c'è ad esempio oggi a livello di suoni a Milano, in Via Gola, è una roba che ricorda molto gli anni 90. Così, come in tutto questo tuo girovagare, sbattimenti vari, come sei arrivata a loro e magari ricorda i contatti del gruppo? Allora, ho conosciuto circa 5 anni fa Claudio Stanghellini, bassista dell'Interno, con cui poi ho anche lavorato per il mio film, e ci siamo conosciuti quando io ancora suonavo con i Wells Island. Suonammo insieme a un concerto dei No Trigger a Bologna, io l'anno dopo mi sarei trasferito a Bologna, cominciai a chiacchierare con lui e pensavamo di fare un gruppo insieme. qualcosa comunque diversa da quella che stava suonando lui con l'Interno, che è un gruppo hardcore melodico in tutto e per tutto al 100%. Poi è passato un po' di tempo, non si era fatto più nulla. Due anni fa, riparlandone, si è deciso di cominciare a provare, ma così per divertimento. Conoscevamo già Andrea Cantelli, che è il cantante del nostro gruppo, nel giro dei concerti punk rock, anche perché lui gira spesso per le fotografie, anche, scrive anche, fa delle interviste per alcuni magazine conosciuti in Italia, e gli abbiamo proposto di cantare. E all'inizio in realtà era nato tutto veramente per gioco, cioè è un gruppo di fancazzisti fondamentalmente, cioè, okay. Andiamo, ci divertiamo, prendiamo tutte le date possibili e immaginabili andandoci sotto quei soldi, non ci interessa. Adesso ti voglio fare una domanda. Una domanda bella scomoda, visto che nel tuo libro comunque, anche nel DVD, siamo tutti seri, l'underground, e qui e qua. Adesso voglio, perché mancano comunque un po' di aneddoti, adesso voglio che tu mi racconti un aneddoto che fa ridere, ogni tanto a cui tu pensi, magari, non so, legato a questa scena, in un minuto. In un minuto è difficilissimo. Ti posso raccontare, guarda, un aneddoto legato agli Onoda, è una cosa che capita spesso in realtà, però tornavamo da un concerto a Vigevano, io vivevo qui a Milano, allora eravamo venuti a dormire ovviamente a casa mia perché era il posto più vicino a Vigevano, tutti ubriachi loro, io devo sempre guidare al ritorno chiaramente, arriviamo, saliamo su in casa, arriviamo davanti la porta e Stanga fa: ragazzi, ma la mia valigia dov'è? Cantelli, secondo lui, era lucidissimo, si volta da Stanga e gli fa: ma io l'ho lasciata per strada. E lì era cominciata la nottata, era solo l'inizio. Siamo entrati in casa, Zed si è coricato per terra dopo che io avevo preparato il letto. Gli ho detto: scusami, ma c'è il letto, cioè, è per te, dormici. Mi fa: no, mi devo abituare. Vabbè, è stato lì per terra. Continuiamo nella nottata, io e Stanga dormivamo in camera mia. A un certo punto, verso le 5:30, 6, sentiamo un rumore, apriamo gli occhi e ci ritroviamo Cantelli in mutande, in piedi, davanti al letto. Gli faccio: Cant, ma che fai? Mi sono perso tra il bagno e il divano, se mi potete accompagnare. Va bene, grazie. Ciao a tutti e grazie a voi. E allora... un altro brano, sempre della compilation Disgusto e Strafottanza, volume 1. Loro sono gli RFT e questo è Vento. Le carenze di un tempo, le parole E questi erano gli RFT. Noi rinnoviamo l'invito a tutti voi che ascoltate la trasmissione a partecipare, a contribuire ad arricchire la trasmissione appunto con i vostri punti di vista. Quindi fatevi sentire. E mandiamo in onda l'ultimo contributo dalla 5 giorni organizzata per le strade di Milano. E questa è un'intervista a Pietro. Della Stress to Death Records. Eccola. E allora va bene, siamo di nuovo qui, questo è sempre Disgusto Strafottenza Fest. Siamo qua con una persona che conosco da tanti anni, Pietro. Ciao a tutti, ciao. Va bene, io e Pietro ci conosciamo da tanti anni, abbiamo fatto un percorso di Do It Yourself assieme, ne faremo tanti altri perché comunque il bello è sempre quello di incontrarci qua in queste occasioni. E, così, tu avevi un'etichetta che si chiama Stress to Death Records, siamo nel 2015, siamo qua a Milano, una città che in questo momento è il palcoscenico di un evento mondiale, però noi siamo qua in Via Gola che ci mangiano le zanzare. E volevo sapere questa cosa qua, tu ti sei comunque trasferito in questa città, hai fatto anche una scelta di vita, ma la tua scelta di vita comunque non è differita da quello che sei, e quindi da continuare un po' il discorso che avevi iniziato. Spiega un po' com'è. Guarda, io in verità ho fatto un percorso all'indietro, perché io sono di Milano, sono figlio di milanese, però a 18 anni nel 2000 mi sono levato dal cazzo, che non ne potevo più, perché è una città che mi ha sempre soffocato. Quindi io sono figlio delle periferie, sono della zona nord, sono nato a 18 anni a Firenze ed è iniziato tutto lì in verità. Poi è stato gli anni del forum di Napoli, del G8, quindi è stato proprio... Sono arrivato a Firenze subito, case occupate, subito collettivi, e io arrivavo già non dal giro dei collettivi anarchici milanesi, però era un periodo strano a Milano, e a Firenze sono partito, poi con la passione con la musica. E un po' dal nulla abbiamo creato, inizialmente abbiamo occupato vari spazi, tra cui un bar dentro l'Università di Lettere, e da lì è nata una nuova scena hardcore a Firenze, da cui poi è nato il mio progetto Stress to Death, che in verità più che un'etichetta era l'evoluzione dello sbattersi a fare concerti, occupare spazi, a portare avanti anche un suono, perché poi era quello che mi piaceva, che era il suono proprio punk hardcore, fastcore, power violence, però condividendo poi anche con altre individualità e amici che magari promuovevano craste, altre realtà diverse. E poi in verità poi era tutto un fulcro per portare in giro un'idea rivoluzionaria, che era quella di base anarchica e antagonista, perché poi la realtà era quella. Ecco, noi siamo in un posto che comunque sta organizzando un concerto benefit per Graziano, uno dei arrestati no TAV di maggio, e comunque è una situazione diversa, no? dal 2015 per alcuni gruppi punk hardcore comunque vuol dire anche o comunque solo esclusivamente il divertirsi nei locali piuttosto che nei circoli e cose di questo genere. C'è un po' questa visione, e un po' le persone che comunque, a parte la musica, vedono altro, hanno un po', cioè va un po' a sinusoide, no? Sì, certo. Nel senso, comunque va a sinusoide, a ondate. Tu in questo momento siamo qua, e secondo me Milano in questo momento comunque ha delle cose da dire per quello che dicevamo. Guarda, io prima sono tornato a vivere qua per motivi puramente personali e non belli 5 anni fa, però non a caso ci sono rimasto, perché è un momento... Ciao Max! Scusa. È un momento bello, no, perché è sempre una merda, però è un momento attivo, figo, perché io ormai ho 32 anni, non sono più... sono sempre il solito ragazzino, ma non lo sono più. La vita mi ha dato tante mazzate, ma continuo. però è bello perché ora è un momento in cui Milano è sempre stata la città delle faide, è sempre stata così vista in Italia ed era vero. Invece ora, essendo una città che ti mangia in testa, una città non solidale, una città fatta solo per guadagnare i soldi e arricchirsi, ci stiamo unendo, cioè merito delle nuove generazioni in pieno, merito dei diciottenni che 4-5 anni fa hanno iniziato a occupare, hanno iniziato a sbattersi e hanno iniziato ad avere comunque una rabbia diversa dalla nostra, perché noi magari eravamo figli di genitori che non stavano perdendo concretamente il lavoro, allora adesso sono nella merda. Quindi merito di queste nuove generazioni, ora a Milano con le vecchie generazioni si è creata una realtà come tu vedi stasera, unica, perché stasera sono state invitate tutte le realtà hardcore che nelle altre città sono divise, qui finalmente adesso siamo tutti uniti, perché è sempre stato così, anche i giri politici sono sempre stati un po' divisi. Diciamo che il mio giro è un giro magari più vicino all'antisessismo, all'animalismo, e poi ci sono invece giri più antagonisti. Stasera siamo tutti uniti e la cosa bella è che fa un caldo da morire, ma da 10 ore stiamo bevendo, parlando, confrontandoci in una situazione finalmente bella, perché purtroppo è un momento in cui a Milano la repressione è altissima come in tutte le città, ma qui stanno tentando in tutti i modi di tagliarci le gambe perché non gli va bene. L'hanno visto soprattutto con gli sgomberi, che Milano è una città dormiente, però tanta gente si è rotta i coglioni, e che quindi sono belli questi momenti comunitari perché ci fanno star bene, cioè comunque è una giornata bella, una giornata in cui ce ne vogliono tante diverse come queste, soprattutto perché siamo in strada. A Milano non si vive in strada, la città non ti permette. È strano, non sembra una città italiana, nel resto delle città come anche nella tua Torino, a Roma, come a Firenze si sta in strada, qua no, qua la strada te la devi guadagnare ma ci devi credere. E ora ci sto bene a Milano, l'odio verso questa città è sempre perenne, però credo che sia possibile ora qui condividere con altre persone. Prima mi sentivo molto più isolato, invece ora ci stiamo iniziando a guardare più in faccia, a capire che molte cose sono delle cazzate personali e non sono invece discorsi politici d'attitudine, perché quando c'è un animo rivoluzionario bisogna crederci, quindi ora è un bellissimo momento, pur essendo un momento di merda, però la giornata di oggi ne è, lo sottolineo. Noi qua siamo in via Gola ci abitava Dax. Certo. Secondo me su Milano questo ha fatto molto, nel senso purtroppo le sfighe, comunque la presenza di determinati personaggi, cosa che ad esempio a Torino non si sente, a Roma se ne sente, però che cosa, cioè comunque anche se appunto arrancando il movimento, l'antifascismo, chi porta in giro la lotta per il diritto alla casa, chi porta comunque in giro determinate tematiche, in questa città comunque è sempre presente, ma anche perché poi Milano è una città complessa, è una città vetrina, ma in verità è chiusa in una zona molto circoscritta dalla città, la vetrina, e poi invece c'è una periferia molto disagiata, molto povera, molto rabbiosa e anche molto problematica. Via Gola e altre piccole isole sono delle isole difficili ma felici, nel senso dove c'è un antifascismo, dove c'è una realtà di posti occupati, di storici ben precisa. Ci sono altre realtà e altre zone, quella da cui vengo io, dove non c'è quasi nulla, da dove in strada tu da sola te la devi combattere. Cioè io l'antifascismo, come molti compagni di altre zone di Milano, ce lo portiamo in giro giornalmente. Io sono andato avanti a prendermi gli schiaffi perché inizialmente ero comunista, poi perché ero anarco, poi perché ero frocio, e continuo a prendermi gli insulti. Però quello che sta cambiando ora è che non siamo più soli, cioè prima ci auto-isolavamo noi di Milano, che era una critica che faccio a noi stessi, una cosa che ti porta, soprattutto poi quando hai anche una famiglia di qua, ti porta proprio a chiuderti, a non parlare, a isolarti, a pensare che sei fottuto. È dura, ma invece ce la si può fare. Poi non bisogna neanche idealizzarla troppo, perché adesso tu sei qua in Via Gola, è una realtà particolare, è una realtà fortissima che io amo e tutti i milanesi amiamo del nostro giro, ma poi se vivi in zona nord, dove vivo io, MacMono, altre zone dove sotto casa mia c'ho l'Altazione, c'ho gli Hammerskin che vanno a bere allo Stalingrado, e vado in giro col cane, mi urlo una zecca di merda, gli stacco gli adesivi e facciamo la sberle, è così. Poi è così la città. Milano è una città dura, cioè è una città, il centro è vetrina luccicante, le periferie non sono luccicanti, un cazzo. Ecco, adesso l'ultima domanda, così per chiudere questa intervista. Nel 2015 facciamo un po' di autocritica anche se vogliamo. Come sta andando questa nostra cosa di incontrarci qua, di parlarci, di organizzare le cose, di comunque mandare avanti in un certo modo, oltre che alla musica, anche un certo modo di pensare alla musica? Guarda, ti dico, quello che posso dire del 2015, anche un po' il 14, è che è un momento di incontro. Cioè io comunque da 20 anni che bazzico, e poi non so bene neanche dirti quale giro, perché mi sono sempre rifinito una cagna sciolta, non un cane sciolto, però mi sono sempre fatto la mia vita. Però ora, anche con le esperienze e le persone che conosco, è un momento di incontro, ed è un momento di incontro nella situazione drammatica di repressione, secondo me a livelli folli ormai. È un momento di incontriamoci, confrontiamoci, magari conosciamoci, quindi è un momento di positivo sulle relazioni umane. A livello politico forse non sono la persona giusta, tu mi conosci, io ho sempre fatto movimento ma mai attivismo in una realtà precisa, quindi non è la mia identità. Io sono un individualista, un anarchico, e ho il mio modo di vivere, non credo, rispetto le realtà politiche, vado un po' comunque in molte realtà, mi confronto, cerco il dialogo, ma non sono la persona giusta. Ti posso dire invece più come situazione di vivibilità nelle realtà comunque rivoluzionarie, cioè proprio come singolo, come umano, è un momento veramente positivo. È un momento positivo perché, cioè, se io devo guardare la mia vita fuori da questa realtà milanese, è un piattume, attorno a me vedo zombie, e invece qui riesco a confrontarmi, cioè con i miei fratelli e sorelle disagiati riusciamo a passare delle serate, e abbiamo rabbia, perché comunque quando bisogna reagire, cazzo, in questi anni stiamo reagendo, e si reagisce bene, si reagisce, basta, senza paranoia del prima e del dopo. Infatti quello che mancava prima, la reazione. Ok, grazie, grazie mille. Bella. Bella raga, sono Pietro, anche di Solo Vinile Libri, e io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai eh! E questo era l'ultimo contributo da Milano. Insomma, se vi siete stancati di sentire Mastello ogni puntata, fatevi sentire, contribuite, partecipate alla trasmissione, perché è uno spazio aperto. Noi vogliamo conoscervi, quindi l'indirizzo email diyinvasion@autoproduzioni.net, scriveteci. E passiamo all'ultimo pezzo della compilation Disgusto e Strafottenza volume 1. Loro sono due pischelle marce, le Agatha, e questa è la loro Black Hole da capo. e loro sono le Agatha. Mentre questo sabato, in mezzo ai monti e Carpineto Romano, ci sarà la seconda edizione del Macere Fest. Quindi un festival nato dall'esigenza, insomma, di creare qualcosa nella provincia. Quindi uno spazio, un'iniziativa dove si ascolterà musica estrema. Quindi dalle ore 18 Carpineto Romano, via Rerum Novarum, 11 band, 11. Lud Rising, Idol Lips, Pandemonium Carnival, Nuari, Mefitica, Hostiliter, E-Kate, Alieni, Mega, Iferox, Sanitarum. Il tutto condito dal DJ set di Lady Crime. E noi ci ascoltiamo adesso, appunto, Iferox, che suoneranno questo sabato Carpineto Romano, Macere Fest volume 2. E 22:12 minuti, abbiamo sforato un po'. Siete il male minore. Sono già pronti gli apostati. 87.9 in FM, Radio Onda Rossa. Questa è Do It Yourself Invasion. L'appuntamento è a giovedì prossimo, ore 21. Ricordiamo l'indirizzo email diyinvasion@autoproduzioni.net. Fatevi sentire. Non ne passa proprio più. Vi lasciamo con un brano tratto dal vinile costruito nella Tuscia, che abbiamo presentato già a 25 o'clock un sacco di volte. Bella Fefo. Loro sono gli Hostiliter, suoneranno questo sabato al Macere Fest a Carpineto Romano. Dai, a giovedì prossimo!